ad alta voce. Paolo Piero Bon legge Le avventure di Gordon Pym di Edgar Allan Poe. Traduzione di Elio Vittorini. Per fortuna, prima che fosse calata la notte, noi ci eravamo solidamente legati tutti e quattro al moncone dell'Arganello, tenendoci così distesi e più che possibile appiattiti sul ponte. Questa precauzione ebbe a salvarci dalla morte. L'enorme peso dell'acqua abbattutasi su di noi ci aveva tutti più o meno storditi, lasciandoci, quando poi l'onda s'era ritirata, quasi privi di vita. Come io ebbi recuperato il respiro, mi misi a chiamare forte i miei compagni. Solo Augustus mi rispose: «È finita per noi», egli disse, «che Iddio abbia misericordia delle anime nostre». Poi, a poco, anche gli altri due si trovarono in grado di parlare, ed essi ci esortarono ad avere coraggio e a non perderci di speranza, affermando impossibile, per la natura del carico, che il brigantino colasse a fondo, e dicendosi certi che col mattino la tempesta si sarebbe dissipata. Queste parole mi restituirono la vita, impero che, per strano che possa sembrare, io non avevo pensato, tanto ero stravolto, che una nave carica di barili vuoti non può affondare, e consideravo già da un pezzo il pericolo di colare a picco imminente. Come in tal modo la speranza rinacque in me, mi valsi di ogni occasione per rinforzare le corde che mi legavano al moncone dell'Arganello, e in breve mi accorsi che i miei compagni avevano avuto la mia stessa idea e facevano altrettanto. Nera era la notte, come non poteva essere di più, e tale il pauroso e caotico fracasso intorno a noi che inutilmente cercherei di descriverlo. Il ponte si trovava a livello del mare, o a dir meglio, eravamo chiusi entro un torreggiante cerchio di spuma, parte della quale trascorreva ad ogni tratto su di noi, sicché, senza esagerazione, non avevamo le teste del tutto fuori dall'acqua che un secondo su tre. Per quanto fossimo coricati l'uno stretto all'altro, nessuno di noi poteva vedere il suo vicino, né cosa alcuna della nave stessa sulla quale pure eravamo così furiosamente sbattuti. Ci chiamavamo perciò a vicenda di tempo in tempo, onde sforzarci di tener desta in noi la speranza e consolarci e incoraggiarci a seconda di chi più mostrava d'averne il bisogno. Lo stato di debolezza in cui Augustus si trovava ci teneva vivamente preoccupati, e come a causa del suo braccio destro ferito gli era impossibile assicurare più solidamente le sue corde, mentre era del pari impossibile che gli recassimo soccorso noi, temevamo che da un momento all'altro non venisse trascinato via. Per fortuna, il posto occupato da lui era il più sicuro di tutti, in quanto egli si trovava con la parte superiore del corpo al riparo di una sporgenza dell'Arganello fracassato che in quel punto attenuava di molto la violenza delle ondate. In altra posizione non c'è dubbio che egli sarebbe perito prima del mattino. E lì non s'era mica messo di proposito, vi era stato gettato per puro caso, dopo di essersi attaccato a un posto per lui pericolosissimo. Grazie all'inclinazione del brigantino che dava di banda, come ho già detto, a babordo col ponte fin quasi a metà, sempre sotto l'acqua, noi eravamo assai meno esposti di quanto lo saremmo stati in ogni altro caso. In questa paurosa situazione restammo sinché non fece giorno. A renderci chiari gli orrori che ci circondavano, il brigantino non era più che un ceppo, alla mercé di ogni ondata. La tempesta cresceva sempre, vero uragano, e noi non vedevamo, all'infuori di un aiuto sovrannaturale, nessuna prospettiva di salvezza. Per diverse ore non osammo dir parola, sospesi nel timore che da un momento all'altro i nostri legami non cedessero o che il moncone dell'Arganello non venisse anch'esso staccato e trascinato fuori bordo, o che qualcuna delle enormi ondate che ci muggivano attorno e sopra in tutte le direzioni non sommergesse tanto la carcassa da annegarci prima di lasciarla ritornare alla superficie. E però, grazie a Dio, fummo preservati da tutti questi pericoli, e verso mezzogiorno potemmo rallegrarci della benedetta luce del sole. Poco dopo avvertimmo una sensibile diminuzione nella forza del vento ed ecco, per la prima volta dalle ultime ore della sera avanti, Augustus parlò per chiedere a Peters, che gli stava al lato, se riteneva in qualche modo possibile salvarci. Siccome il meticcio non gli rispose subito, noi pensammo che fosse rimasto annegato sul posto, ma poi, con nostra grande gioia, aprì la bocca e, sebbene fioco fioco, disse che soffriva molto, che si sentiva tagliare dalle corde siccome se le era legate troppo strette intorno allo stomaco e che se non riusciva ad allentarsele avrebbe voluto morire piuttosto che sopportare ancora una simile tortura. Questo ci arrecò grande dolore, da poiché non potevamo certo pensare di soccorrerlo con quel mare che andava e veniva di continuo sopra noi. L'esortammo a sopportare con coraggio le sue sofferenze e gli promettemmo di fare di tutto per sollevarnelo non appena la tempesta ce lo avesse permesso. Egli rispose che sarebbe stato troppo tardi, che per lui sarebbe finita prima che ci fosse stato possibile recargli aiuto, e messo quindi qualche gemito, di nuovo ammutolì per la qualcosa. Lo giudicammo morto. Con l'avvicinarsi della sera il mare s'acquetò al punto che difficilmente più di un'ondata ogni 5 minuti veniva a rompersi sulla carcassa da sopravvento, e il vento pure si era calmato non poco, ancorché soffiasse pur sempre del più bello. Da parecchie ore non sentivo parlare nessuno dei miei compagni e chiamai Augustus. Egli mi rispose così debolmente che non riuscii a distinguere quel che diceva. Mi rivolsi a Parker e a Peters, ma entrambi restarono in silenzio. Poco dopo cadde in uno stato di semicoscienza durante il quale visioni soavissime mi affiorarono alla mente. Alberi verdi, ondulati, praterie di grano biondo, processioni danzanti di giovanette, squadroni di cavalleria e altre cose fantasmagoriche. Ricordo che in tutto ciò che sfilava dinanzi all'occhio della mia mente dominava l'impressione di movimento. Non mi si presentava nessun oggetto immobile, come per esempio una casa, una montagna o qualcosa del genere. Erano sempre invece mulini a vento, navi, uccelli enormi, palloni, uomini a cavallo, vetture lanciate a tutta corsa e altri oggetti mobili che si succedevano senza fine. Venni fuori da questo stato d'animo singolare che il sole era spuntato, a quanto potei giudicare, da circa un'ora. Fu quindi con grande difficoltà che riuscii a ricondurre la mia memoria su tutte le circostanze della realtà in cui mi trovavo, e per un pezzo credetti fermamente di essere sempre nella cala del brigantino, vicino alla mia cassa, e scambiai il corpo di Parker per quello di Tiger. Quando poi ebbi recuperato del tutto la coscienza, mi accorsi che il vento soffiava lievissimo e che il mare era, a paragone del giorno avanti, quasi calmo, tanto che batteva sopra il brigantino solo per traverso bordo. Avevo il braccio sinistro, che s'era sciolto dai suoi legami, tutto contuso intorno al gomito, il destro completamente paralizzato, con la mano e il polso oltremodo gonfi per la pressione delle corde che aveva agito dalla spalla in giù. Non meno mi faceva soffrire un'altra corda che mi serrava la vita in una maniera insopportabile. Alzai gli occhi a guardare i miei compagni e vidi che Peters, sebbene avesse i fianchi così attanagliati da un grosso cavo da sembrare quasi tagliato in due, viveva ancora. E appena mi ero mosso, che mi fece un gesto stanco a indicarmi la corda con la mano. Augustus, quasi ripiegato su se stesso sopra uno spuntone dell'arganello, non dava segno di vita. Parker, vedendo che mi muovevo, parlò per domandarmi se mi sentivo forte abbastanza da liberarlo dei suoi legami, dapoiché mi disse, se raccogliendo tutte le mie energie fossi riuscito a slegare almeno lui, potevamo ancora sperare di salvarci, mentre in caso contrario ci sarebbe toccato di perire tutti. Gli risposi di farsi coraggio, che mi sarei sforzato di liberarlo. Così mi cercai dentro la tasca dei pantaloni, ne trassi il temperino e dopo parecchi tentativi infruttuosi pervenni infine ad aprirlo. Riuscii allora con la mano sinistra a sbarazzarmi dalle corde il braccio destro, quindi passai a tagliare gli altri legami che mi trattenevano. Ma come cercai di mutare posizione, sentii che le gambe mi mancavano completamente e che non potevo alzarmi in piedi, allo stesso modo che mi era impossibile muovere in un qualsiasi senso il braccio destro. Lo dissi a Parker ed egli mi consigliò di stare fermo, tenendomi con la sinistra all'arganello per qualche minuto, in modo da dare al sangue il tempo di circolare. A poco l'intorpidimento cominciò difatti a sparire e io venni in grado di muovere prima una gamba, poi l'altra, recuperando in parte alla fine anche l'uso del braccio destro. Strisciai allora con le più grandi precauzioni e senza sollevarmi sulle gambe verso Parker, tagliai tutte le corde che lo avvincevano, così che anche lui si trovò in breve, come me, a poter disporre delle sue membra. Senza perdere tempo, passammo a disfare la corda di Peters, che attraverso la cintola dei pantaloni di lana e ben due camicie era penetrata profondamente nell'inguine, dal quale, quando togliemmo la corda, sgorgò sangue a profusione. Ma non appena liberato, Peters si mise a parlare e parve provasse subito sollievo, dimostrandosi anche capace di muoversi con maggior facilità di me e di Parker, a causa questo, senza dubbio, del sangue di cui si era scaricato. Nutrivamo ben poca speranza che Augustus, siccome non dava segno di vita, si riavesse, ma venendo a lui vedemmo che era soltanto svenuto in seguito alla perdita di sangue prodottasi per il fatto che l'acqua gli aveva strappato le bende dal braccio ferito, mentre nessuna delle corde che lo assicuravano all'arganello era così stretta da poter causare la morte. Sbarazzatolo dei suoi legami e tiratolo via dall'arganello, lo posammo in un punto asciutto a sopravvento con la testa in basso e tutti e tre ci si mise a strofinargli le membra. In capo a una mezz'ora si riebbe un po', ma fu solo la mattina appresso che lasciò capire di riconoscerci uno per uno e che si trovò in grado di parlare. Nel tempo che avevamo impiegato a liberarci di tutti i nostri legami era sopravvenuta la notte e siccome il cielo accennava a coprirsi, un'angosciosa paura ci prese che non tornasse tempesta. Nel qual caso, all'estremo delle forze in cui eravamo, nulla avrebbe potuto salvarci dalla morte. Per fortuna, il tempo si mantenne dolce tutta la notte e il mare andò sempre più calmandosi, tanto che cominciammo a crederci davvero fuori pericolo. Soffiava ancora da nord-ovest una brezza leggera, ma non faceva freddo per nulla. Augustus, troppo debole per tenersi da sé, fu legato con ogni cura a sopravvento, nel timore che non se ne scivolasse a qualche colpo di rullio giù di bordo. Per noi non era necessario prendere simile precauzione. Ci si mise a sedere l'uno stretto all'altro e a vicenda sostenendoci, anche con l'ausilio di corde strappate dall'arganello, e parlammo di ciò che potevamo fare onde uscire da quella paurosa situazione. Non poco sollievo provammo a toglierci gli abiti e spremerli dall'acqua, poiché nel tornare ad indossarli spremuti li trovammo caldi e piacevoli e ne fummo rinvigoriti. Aiutammo Augustus a fare altrettanto spremendoglieli noi, e anche lui poté godere dello stesso benessere. Le sofferenze maggiori c'erano date adesso dalla fame e dalla sete, e non appena volgevamo il pensiero al modo di soddisfarci in tal senso, il cuore ci si stringeva e quasi ci rammaricavamo di essere scampati al pericolo meno terribile di annegare. Non di meno ci sforzammo di consolarci nella speranza di venire soccorsi presto da qualche nave e ci esortavamo l'un l'altro a sopportare con fortezza d'animo tutte le calamità nelle quali avremmo ancora potuto incorrere. Spuntò finalmente l'alba del 14, sempre con tempo chiaro e dolce, sotto una brezza lievissima che continuava a soffiare da nord-ovest. Il mare s'era ormai placato del tutto. E come? Per ragioni che non riuscimmo a indovinare, il brigantino non stava più tanto di fianco. Potevamo liberamente andare e venire sul ponte, tornato abbastanza al secco. Erano 3 giorni e 3 notti che non avevamo più mangiato né bevuto e diveniva assolutamente necessario tentare di procurarci qualcosa da basso. Il brigantino era però colmo d'acqua, per cui ci mettemmo all'opera senza nessuna impazienza e con scarsa speranza di successo. Con 2 pezzi di legno legati in croce e dei chiodi strappati dagli avanzi del casotto, ci fabbricammo una specie di draga che, mezzo di una fune, calammo nel quadrato per muoverla poi di qua e di là, nella vaga supposizione di riuscire a pescare qualcosa che ci servisse di nutrimento o almeno di aiuto a procurarci del cibo. Così trascorremmo la maggior parte della mattinata senz'altro frutto che la pesca di alcune coperte, nelle quali i chiodi avevano subito fatto presa. E invero, il nostro congegno era troppo rozzo perché si potesse contare su miglior successo. Ritentammo la prova col castello di prua e fu del pari inutile, tanto che cominciammo a disperarci, quando ecco Peters si offrì di farsi legare una corda alla vita e di tuffarsi nel quadrato per cercar lui di prendere qualcosa. Noi salutammo questa sua proposta con tutta la gioia che poteva ispirarci la rinata speranza ed egli cominciò subito a spogliarsi dei suoi indumenti, pantaloni eccettuati. Quindi si fece passare intorno alla vita una solida fune che noi gli assicurammo con ogni cura alle spalle onde impedirle di scivolare. L'impresa era pericolosissima e della più grande difficoltà. Siccome difficilmente egli avrebbe potuto trovare molte provviste, seppur ce n'erano, nella sala stessa, e bisognava che, una volta lasciatosi andar giù, svoltasse a destra per spingersi sott'acqua lungo uno stretto corridoio di 10 o 12 piedi sino alla dispensa, senza mai trarre il respiro. Quando tutto fu pronto, Peters discese nel quadrato, seguendo i gradini, e appena l'acqua gli arrivò al mento, si tuffò a testa avanti e, dirigendosi a destra, si sforzò di raggiungere la dispensa. Ma questo primo tentativo fallì subito. Non era neanche trascorso 30 secondi che sentimmo scuotere la corda violentemente, secondo si era convenuto per capire quando egli voleva essere tirato su. Lo tirammo dunque in tutta fretta, ma così rudemente che si ammaccò piuttosto male contro la scala. Non portava nulla. Gli era stato impossibile spingersi per più di qualche piede nel corridoio a causa degli sforzi continui che gli occorreva fare per non essere mandato in alto a galleggiare contro il ponte. Veniva fuori sfinito e dovette riposarsi 15 buoni minuti prima di avventurarsi a scendere di nuovo. Il secondo tentativo risultò più disgraziato ancora. Peters rimase sott'acqua tanto a lungo, senza darci il segnale convenuto, che noi, in ansia per la sua vita, lo tirammo su di nostra iniziativa e si trovò che era quasi all'ultimo anelito, essendo che, come poi ci disse, aveva scosso la corda a più riprese e noi non ce ne eravamo accorti. A spiegarci la cosa, supponemmo che la fune doveva essersi impigliata nella balaustra a piè della scala. Questa balaustra era in verità di tanto impaccio che risolvemmo di strapparla via prima di procedere a un nuovo tentativo. Non avendo altri mezzi per toglierla, se non la nostra stessa forza, ci calammo tutti e quattro nell'acqua più che ci fu possibile e spingendo insieme riuscimmo a buttarla da parte. Ma la terza prova non ebbe miglior successo delle due prime e divenne evidente che non si sarebbe approdato a nulla senza l'aiuto di qualche peso che trattenesse Peters all'impiantito della sala durante le ricerche. A lungo ci guardammo intorno per vedere di trovare qualcosa di adatto a ciò e infine l'occhio ci cadde, riempiendoci di gioia, su uno dei reggi sartie a sopravvento del trinchetto, il quale era già tanto staccato che non ci fu difficile strapparlo via del tutto. Peters se lo assicurò solidamente a una delle caviglie e per la quarta volta si calò nel quadrato, riuscendo finalmente a farsi strada sino alla porta della cambusa. Ma, con sua indicibile rabbia, la trovò chiusa e si vide obbligato a risalire senza averla aperta, dapoiché, pur col massimo sforzo, non era capace di restare sott'acqua per più di un minuto. La nostra situazione andava prendendo in vero un carattere sinistro e io e Augustus non potemmo trattenerci dallo scoppiare in lacrime, pensando a tutte le difficoltà di cui eravamo circondati e alle scarse probabilità di salvezza che ci restavano. Ma fu debolezza momentanea. Lasciatici cadere sulle ginocchia a implorare Iddio di volerci assistere fra tutti quei pericoli, fu con nuova speranza e nuovo vigore che ci risollevammo per volgere subito il pensiero a tutto quanto era ancora possibile fare nell'intento della nostra liberazione.